Vediamo un resoconto di ciò che è avvenuto oggi 6 giugno ad Edimburgo, dove sotto le manifestazioni che suscitano il maggior clamore, sembra che gli 8 potenti si stiano mettendo d'accordo. Partiamo da stamattina, quando poco dopo le 4 un nutrito gruppo che variava dalle 600 alle 1000 persone hanno lasciato l'ecovillaggio in 3 gruppi separati. Si sono però incontrati con agenti antisommossa e poliziotti vari, situazione che ha spinto tutti a riunirsi ad Industrial Park. Sono stati rimossi anche da lì e l'intervento della polizia ha causato 2 contusi. Verso le 8 sull'autostrada A9 a est dell'incrocio di Green e Loening, circa 50 persone hanno bloccato il traffico a sud con un sit-in. Sempre intorno a quell'ora più di 200 manifestanti sono stati dispersi dall'area attorno allo Sheraton Hotel. Sono riusciti a fermare per 10 minuti i bus dei delegati. Intorno alle 8:40 sembra che la polizia si stesse preoccupando di raccomandare alla gente di non avvicinarsi alle zone di Gleneagles e Stirling per una questione che loro chiamano disordine pubblico serio continuo. Nell'aggiornamento delle 10 veniamo informati che le auto che viaggiavano in direzione di Gleneagles sono state fatte tornare. Non si capisce se per la legge, per i manifestanti o per un problema generale di traffico. Nell'ecovillaggio di Stirling alle 9:30 la situazione era tranquilla, ma la città pullula di polizia. Perquisizioni anche alla stazione ferroviaria, dove chiunque entri o esca viene fermato. Una situazione molto confusa. Tra le 10 e le 11 si registrano azioni composite nella campagna tra Edimburgo e Gleneagles. Un ponte viene bloccato a Auchterarder, nella zona industriale situata vicino all'ecovillaggio di Stirling. Le vetrine di Burger King e Pizza Hut vengono infrante in seguito a scontri con la polizia. Nel contempo, sull'autostrada A9, 100 persone, dopo averla bloccata per un tempo indeterminato, dopo aver ballato e cantato con la Samba Band, riescono a negoziare con la polizia, giunta in forze, di tornare al campeggio senza ripercussioni. Alle 10:40 circa il pullman del Partito dei Bambini del Tè, preceduto da altri veicoli per la manifestazione promossa dal G8 alternativo, viene bloccata. Sono 4 i furgoni carichi di agenti antisommossa che attendono all'angolo. Nel contempo diversi taxi si rifiutano di raggiungere Auchterarder. Piccoli gruppi si dirigono a piedi verso Gleneagles. 10 pullman sono bloccati sempre ad Auchterarder, il paesino situato a 500 metri dalla barriera metallica sorvegliata da oltre 4.000 agenti che circonda Gleneagles, località dove si svolgerà la manifestazione. Sono state numerose qui a mezzogiorno le azioni di disturbo promosse da vari gruppi di affinità. Vari e multiformi gli eventi che cercavano di impedire il summit e hanno messo in notevole difficoltà la polizia del Regno Unito. Molti gli arresti, un rapporto del Legal Team delle 14 ne conferma più di 400. Verso mezzogiorno le autorità sembrano decise a vietare la manifestazione, un gesto che rischia di far salire ancora la tensione. Sono almeno 5.000 le persone attese nel luogo in cui dovrebbe partire la manifestazione, luogo dove le misure di sicurezza sono imponenti. Sono difatti 4.000 gli agenti che sorvegliano la zona rossa. Dopo varie trattative con la polizia viene raggiunto un accordo per fare comunque il corteo. Mezzogiorno. Ad Edimburgo circa 300 persone danno vita ad una manifestazione spontanea. Attivisti che stanno per raggiungere Gleneagles. Alla una, 20 bus raggiungono Auchterarder. Nel primo pomeriggio parte la manifestazione che vede la popolazione di Gleneagles appoggiare i manifestanti sporgendosi dai balconi. Intanto ad Edimburgo la manifestazione spontanea viene accerchiata e alcuni manifestanti arrestati, mentre a Gleneagles la manifestazione ha raggiunto le recinzioni. Attorno ai manifestanti sono presenti diverse forze dell'ordine, anche a cavallo. Verso le 16:400 attivisti sono penetrati all'interno della zona rossa. Gli squarci nella recinzione sono iniziati quando la manifestazione era compressa lungo la strada. Le persone erano obbligate ad avvicinarsi alla recinzione. Poi è semplicemente accaduto. L'atmosfera è di giubilo, le Infernal Noise Brigade e le Samba Band stanno suonando. Alle 17 un elicottero trasporta forze di polizia a Gleneagles. Polizia a cavallo in antisommossa ha circondato le persone nel campo sparse dappertutto. Verso le 17 il sit-in pacifico è stato caricato dalla polizia. Nessuno ha risposto alle provocazioni. 4 gli elicotteri che sorvolano i gruppi. Le forze dell'ordine spingono la folla verso il filo spinato, ordinando che la manifestazione cessi. Dopo varie cariche ed alcuni arresti, i manifestanti lasciano il campo per tornare in città. Nel frattempo la polizia blocca le persone che raggiungono i vari Convergence Center. Siamo alle 20:20, 10 furgoni di poliziotti in antisommossa sono giunti ad un centro di convergenza di Glasgow. Nove persone sono state arrestate grazie ad una legge scozzese che si riferisce alla cospirazione in atti criminali. I fermi vengono effettuati in maniera indiscriminata. Il clima di tensione sembra proseguire nelle due città scozzesi, Glasgow ed Edimburgo, cospicua la presenza di forze dell'ordine nelle strade.